Siamo all'appuntamento con Visionari, il cinema su Radio Onda Rossa, il giovedì dalle 14 alle 15. Tutte le informazioni le trovate sul sito internet della radio, ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari. Sulla pagina Facebook di Visionari, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Potete ascoltarci in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming, perché sull'home page del sito della radio c'è Ascolta la diretta. Primo ospite di quest'oggi è Francesco Adolini, regista di Ogni preziosa giornata, che sarà presentato a Visioni Fuori Raccordo Film Festival The Tour domani venerdì 13 novembre. Francesco, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti, grazie dello spazio. Allora, non si può dire che ci sarò, perché domani sera abbiamo una serata per la radio qui al Nuovo Cinema Palazzo e ci stiamo costruendo, cioè è un po' che la costruiamo, insomma, quindi mi spiace per questo. Però, insomma, raccontiamo intanto il tema, Ogni preziosa giornata. Francesco, di cosa si tratta? Dunque, il documentario racconta la vicenda che ha riguardato mia madre, che è stata malata per 17 anni di tumore e si è inventata un suo modo per riuscire a resistere, insomma, a questa prova piuttosto dura, cercando comunque di godersi la vita, perché comunque era una persona molto diciamo amante della vita, e sono riuscito con estremo piacere a farle vedere il film prima che purtroppo venisse a mancare, poi insomma, anni dopo, che un anno dopo che avevo finito il film. Però quindi il tema è, diciamo, questo, del rapporto anche madre figlio, del rapporto tra due persone mature, due amanti maturi, perché è anche una storia d'amore. Ecco, questo è il film. Quindi una donna che ha un sogno, ma che conduce anche una battaglia. Sì, è una donna che ha un sogno, che è una donna anche molto capace di essere legata alla realtà, perché appunto diciamo non è mai fuggita nel mondo dei sogni da questa battaglia, come invece quando, insomma, più giovane feci io, perché insomma io sono un po' anche fuggito in qualche modo, ero adolescente e quindi mi rifugiavo nel mondo dei sogni per non vedere in qualche modo la battaglia che mia madre stava conducendo. Ma nel corso poi di 17 anni ho avuto sicuramente modo anche di guardare in faccia questa realtà, e ecco, sì, quindi sì, una donna sicuramente molto forte. Senti Francesco, qual è stato il lascito di questo lavoro e di questa esperienza anche che ti ha coinvolto così direttamente? Dunque, il primissimo lascito è stato innanzitutto riconoscere e scoprire potentemente la delicatezza e la forza inarrestabili che sono nelle donne, che è nelle donne, insomma, questa forza fatta non di aggressione o di brutalità, ma fatta di anche dolcezza, ma determinazione totale. Ecco, quindi io ho veramente scoperto una parte dell'universo femminile che insomma mi ha fatto ancora di più amare le donne. Ecco. Senti, per quanto riguarda il documentario, hai anche uno spazio internet per saperne di più sul calendario di proiezioni, su eventuali distribuzioni o passaggi in TV? Sì, dunque, per ora abbiamo realizzato una pagina Facebook. Diciamo, dietro questo documentario c'è un collettivo di tecnici e professionisti indipendenti, quindi tutto quanto è realizzato in maniera molto artigianale, quindi non abbiamo un sito ufficiale ancora, ma abbiamo una pagina Facebook, Ogni preziosa giornata, e lì ci sono, insomma, tutte quante gli aggiornamenti sulle varie proiezioni, i vari eventi riguardo il film, ecco. Bene, ricordiamo l'appuntamento per vederlo, Visioni Fuori Raccordo Film Fest al The Tour venerdì 13 novembre. Francesco, un abbraccio e alla prossima. Grazie mille, un abbraccio a voi e continuate così. Grazie, grazie, ciao, ciao, ciao. Francesco Adolini, regista del documentario Ogni preziosa giornata. Con noi Francesco Chiatante, regista del documentario Animland, racconti tra manga, anime e cosplay, al Roma Fiction Fest domani 13 novembre. Ho pronunciato giusto, Francesco? In realtà il titolo l'ho pronunciato è Anime Land. Anime Land. Allora... Okay. Grazie. No, comunque, vabbè, ma capisco che è abbastanza complicata, non è per te. Anzi. Senti, no, sì. Perché ognuno poi sono parole italianizzate, perché vengono da altre lingue, eh sì, no? Eh sì. Allora, la pronuncia corretta non è neanche la mia, secondo me. Allora, la manga è la prima parola che salta agli occhi e sì. Immagino sia un po' il tema conduttore. Sì e no, cioè nel senso che in realtà il titolo viene dalla seconda parola, che è anime. Anime, perché, ok. Perché in Italia sono arrivati prima i cartoni animati, che sono gli anime, poi in seguito i manga e poi si è sviluppato il fenomeno del cosplay. E invece in Giappone il meccanismo è contrario, perché gli anime, i cartoni animati sono tratti dai manga, che sono i fumetti. Sì, sì, sì. E sì, quindi ovviamente è una questione produttiva, cioè se un fumetto ha successo poi fanno il cartone animato. Eh sì, da io faccio. No, abbiamo importato, è stato il contrario. Eh sì, faccio parte di quella generazione che negli anni 70, insomma, ha approcciato al cartone animato in TV proprio grazie a Goldrake e Heidi. Eravamo, esatto. ero molto piccolo, insomma, per cui. Però è stato quello il primo approccio a questa cultura. Francesco, sì. Poi sono cambiate molte cose. Beh, tantissime in realtà, c'è stata tutta un'evoluzione e in certi casi anche una devoluzione a seconda dei momenti, perché all'inizio queste serie erano importate secondo me un po' come tappabuchi, cioè fare sì, cartone sì. In Italia costava, non so, faccio un'ipotesi, 100.000 lire, non è un prezzo ipotetico ovviamente, importarli costava, che ne so, 90, importarli, doppiarli, e quindi alla fine per risparmiare due soldi le emittenti italiane finivano per importare e adattare i prodotti che spesso erano per ragazzi o per adolescenti, comunque per target più alti, e probabilmente non si rendevano neanche conto di cosa facessero realmente. Mm-hmm. E poi un po' alla volta ci siamo tutti un po' innamorati di queste storie, perché poi i bambini si tende a pensare che siano, insomma, non dico stupidi, ma che non capiscono. In realtà i bambini spesso capiscono molto più degli adulti. Mm-hmm. Perché hanno meno filtri. Probabilmente ha fatto anche bene a più generazioni fruire di questi prodotti. Il manga invece poi ha approcciato ad un pubblico più adolescenziale rispetto ai primi cartoni animati in È TV chiaro. che vedemmo, insomma, negli anni 70. È chiaro, i cartoni animati, gli anime giapponesi hanno veramente invaso le televisioni. Io dico, faccio sempre questo esempio, dico sempre che mia mamma magari non ha mai visto un episodio di Goldrick, ma lo riconosce Goldrick. E anche se non una persona, come può succedere guardando la locandina del nostro film, non riconosce Goldrick, riconduce la sagoma all'immaginario del robot, magari penserà a Mazinga sbagliando il nome del personaggio, ma lo riconduci a quel tipo di immaginario, perché c'è stato un tale tam-tam mediatico che comunque ce li abbiamo dentro, e questo vale anche per Heidi, per Candy, per tanti altri personaggi. I manga invece sono arrivati in Italia, sono stati importati per una scelta, perché poi li abbiamo visti i cartoni animati un po' tutti, ma poi chi si è veramente appassionato ha deciso di coltivare di più questa cosa, ha iniziato a comprare, a cercare oggetti, fumetti quando arrivavano. Poi a un certo punto c'è stato un vero e proprio boom. Io mi ricordo che da fino a metà anni 90 veramente io li leggevo tutti quelli che uscivano di manga, metà anni 90, a fine anni 90 inizio 2000 già era impossibile, perché ce n'erano talmente tanti che non riuscivi a stare dietro tutte le cose che uscivano, sì. Perché tutti a un certo punto hanno cominciato a dire è il momento dei manga, pubblichiamo manga, e c'era di tutto. Una volta c'era più selezione, ci scegliamo, e dice no, questo ha avuto successo, c'è una bella storia, anche là il cartone animato, l'anime in Italia è andato, importiamolo. Mm-hmm. E invece poi nel momento in cui c'è stato il boom tutti prendevamo tutto, perché ovviamente Quando c'è un boom di un mercato è così. Sì. Senti, come hai costruito il documentario? Che strada percorre? Il documentario è una vera e propria ricerca e ricostruzione di questi mondi e questi immaginari e di tutto quello che è accaduto da fine anni 70 fino a oggi, partendo dai ricordi d'infanzia dei personaggi e dagli esperti, quello che facevano in quel periodo, quello che hanno vissuto, come insomma, seguendo questi ambiti e cose così. È divertente perché è un po' come se fosse quasi un'indagine. Cioè io adesso ti prendo e ti dico: cosa ti ricordi di quel periodo? E tu mi cominci a raccontare: ah, io che ne so, amavo Mazinga, mi piaceva tantissimo perché faceva questo. Poi chiedo un altro e mi fa: no, io adoravo, che ne so, Bia e la sfida della magia, oppure negli anni 80 Crimi, Holly e Benji. E alla fine, mettendo insieme i pezzi, ti rendi conto che ci sono una serie di temi che sono costanti e di, come posso dire, di immagini robotiche o di orfanelli o di maghette che tutti un po' portiamo dentro di noi. Senti Francesco, il pensiero che mi viene è che sicuramente c'è stata in Giappone un'iperproduzione a cui facevi anche riferimento tu, e c'è stato questo meccanismo dell'importazione soprattutto ad opera delle TV private in quel decennio degli anni 70, ma tutto questo secondo me ha penalizzato molto, specialmente agli inizi, poi anche via col passare del tempo, l'animazione italiana, che invece ha una grossa tradizione. Esatto, ma infatti devo dire che, se questo è un mio pensiero in realtà esterno al documentario, perché ne si parla fino a un certo punto di questo, perché alla fine nel documentario si parla di animazione giapponese, che quando sono arrivato a un certo punto del lavoro avevo una tristezza dentro, pur amando la follia i cartoni giapponesi, i manga, avevo una tristezza dentro perché mi dicevo: porca vacca, se non fosse stato importato tutto questo materiale, probabilmente avremmo tantissime cose in più nostre. Ci sarebbe un settore sviluppato, ci sarebbe lavoro per tutti. Mentre alla fine oggi in Italia ci sono molte poche cose. Non so, adesso ci sono le Winx e poco altro. Sì. Qualche film d'autore, Enzo Dallò ha fatto delle cose. Però veramente Bruno Bozzetto all'epoca, però ormai fa animazione solo per il web, comunque fatta con Flash. Sicuramente questa invasione ha veramente penalizzato tutto il mercato. Addirittura una delle persone che avevo tentato di contattare in fase di lavoro era un vecchio disegnatore dei cartoni animati marchigiano, che quando le persone che conoscevo mi hanno detto: sì, noi li mettiamo in contatto, ma tu non gli nominare Goldrick perché lui lo odia. Ho capito che in realtà noi ovviamente insomma, teniamo per noi un lato buono, perché lo abbiamo sempre dato per buono, no? Se uno ti dice la parola sì, vuol dire sì, per te vorrà dire sì. Se un giorno invece qualcuno ti dice: guarda che la parola sì, forse vuol dire no, potrebbe distruggerti il mondo, che tu proprio non sai più i tuoi fondamenti, no? Purtroppo è andata così, però prendiamo il bene che c'è, prendiamo il bene che si può costruire andando avanti da oggi. Senti, per internet c'è anche, avete un vostro spazio web per questo documentario? Guarda, in questo momento abbiamo solo un canale YouTube dove c'è possibile trovare solo il trailer in questo istante. Sì. E una pagina evento Facebook per questa proiezione, che è la prima mondiale, che facciamo domani sera al Cinema Adriano all'interno del Roma Fiction Fest, questo grande festival che ci ospita, alle ore 20, con ingresso gratuito con coupon. E per il momento nient'altro. Stiamo vedendo come, stiamo valutando proposte per capire come diffondere al meglio il film, anche perché poi, essendo un documentario, i documentari hanno vita strana nel nostro paese. Sì. Cioè, io ho visto e amato documentari bellissimi che purtroppo hanno fatto dei giri, devo dire, talmente pessimi che mi verrebbe da dire: ma perché avete fatto un lavoro così bello e poi questi progetti hanno fatto dei giri, che ne so, alle 4 del mattino sui canali nazionali. Sì, capito? Sì, ma sì, sì. Certo. Cioè io posso pure essere matto, questo sveglio alle 4 del mattino, ma non tutti certo, possono certo, fare questa certo, cosa certo. Senti, allora ricordiamo questa proiezione alla Roma, sì, Fiction Fest domani 13 novembre. Francesco, io ti ringrazio. A questo punto il titolo lo leggerai tu. Dici come si pronuncia. No. Sì, posso dirti solo un'ultima cosa? Sì, vai. Vogliamo citare velocemente una carrellata dei personaggi che abbiamo dentro? Ah, certo. Che sono epocali. ci abbiamo da Valerio Mastandrea a Paolo Cortellesi, a Caparezza, al premio Oscar Michel Gondry, a Giorgio del Trio Medusa, a autori giapponesi, vedi, come l'autore del manga di Holly e Benji o il disegnatore del cartone animato di Kenny Guerriero, Kismilicia e Gatchaman, a proposito, vedi, di fine anni 70 e inizio anni 80. Il titolo del film è Anime Land. Esatto, tra manga, anima e Anime Land, racconti tra manga, anime e cosplay. Benissimo. Grazie. Francesco, un abbraccio e alla prossima. Un abbraccio a te, è stato un piacere, grazie. Ciao. Ciao. Francesco Chiatante, regista del documentario che ha pronunciato lui adesso, Anime Land, a Roma Fiction Fest domani 13 novembre. Stefano Finesi, lo ritroviamo nuovamente per una sua creatura, Qualcuno piace classico, quinta edizione. Ciao a tutti. Al Palazzo delle Esposizioni, è cominciata il 27 ottobre e andrà avanti fino al 31 maggio, un appuntamento quindicinale se non sbaglio, vero? Sì, è ogni martedì, ogni due settimane, sempre alle ore 21, sempre a ingresso libero. E anzi, magari, ecco, invito gli ascoltatori a arrivare sempre un po' prima per prendere il biglietto gratuito, insomma, perché c'è sempre molto pubblico e niente, insomma, quindi di arrivare sempre prima. Sì. Senti, allora, qual è il filo conduttore di questa quinta edizione, Stefano? In realtà tu sai, ormai, ecco, siamo arrivati alla quinta edizione, ma il filo rosso non c'è, nel senso che a parte quello ovviamente del piacere pure del cinema, del ritrovare questi grandi classici in sala, rivederli appunto insieme e in 35 mm, che è l'altro tratto distintivo di tutte le nostre manifestazioni. E quello è la cosa che poi vincola anche, ecco, alla disponibilità delle copie, però sono tutti grandissimi film da rivedersi insieme in sala e in pellicola, ecco. Stefano, i titoli sono tanti, ecco, e ci stanno... Voglio sapere da te quanti sono i titoli e che periodo temporale coprono più o meno. Sì, guarda, veramente arriviamo dagli anni 30 agli anni 80, okay. Quindi insomma anche lì c'è da parte nostra piena e quasi delirante libertà, insomma, però ecco, il pubblico apprezza. Diciamo l'alternanza è soprattutto tra film che sono veramente dei classici molto visti e che, per quanto ovviamente valga sempre la pena poi riscoprirli in sala e in pellicola, film veramente più particolari e più rari, quindi andiamo da un Luci della ribalta di Chaplin, che ovviamente è un film famosissimo, o Umberto D di De Sica, a dei film un po' più particolari come Lo spirito dell'alveare di Victor Erice, che è un regista spagnolo leggendario che qui in Italia insomma è poco conosciuto, che ha fatto 3 film in 30 anni praticamente, e questo per esempio sarà l'appuntamento di martedì 1° dicembre, che è un film veramente molto raro. E poi vabbè, consiglio anche per esempio un titolo di John Ford, Il prigioniero dell'isola degli squali, che è un titolo insomma veramente poco conosciuto, ma e qua parliamo già di maggio però, ma assolutamente da recuperare. E poi sempre per la questione della pellicola, il 17 maggio avremo per esempio Figli amanti di Jack Cardiff. Jack Cardiff è molto conosciuto perché era il direttore della fotografia di Powell e Pressburger, però ha avuto anche una lunga attività da regista, e questo film, che ha un bianco e nero stupefacente di Freddie Francis, e veramente vale la pena rivederlo in pellicola in sala, perché si apprezza in pieno solo così, ecco. Senti Stefano, va bene i classici, ma quali sono stati i criteri di scelta di questa quinta edizione, se sei stato tu tendenzialmente a... No, io ovviamente l'associazione La Farfalla sul Mirino, che siamo, certo, molte, l'ideale diciamo ecco è tenere insieme sia un tipo di cinema, per esempio il cinema hollywoodiano classico, okay. Quindi ecco L'orribile verità, ma anche faremo Lettera a tre mogli di Mankiewicz, La porta proibita, che è una versione di Jane Eyre forse la più bella, anche con Orson Welles, e che fa Rochester e John Fontaine, che fa Jane Eyre, film fantastico, Il segno di Zorro, che è lo Zorro più famoso, quello di Mamoulian con Tyrone Power. Quindi un tipo di cinema e comunque ecco della Hollywood classica, e poi dei titoli particolari, cercando anche di spaziare in senso geografico, ecco, dal cinema americano, ma anche gli inglesi, gli spagnoli, gli italiani, i russi, perché comunque avremo un Solaris di Tarkovsky nella versione integrale sottotitolata, che anche quello, insomma, rivederlo al cinema è sempre un'esperienza ai limiti del misticismo. E poi no, sì, ti ripeto, purtroppo poi c'è sempre la questione della disponibilità delle copie. Questa cosa della pellicola è una cosa che noi portiamo avanti ormai da tanti anni. In questi tempi di trionfo del digitale comunque continuiamo a ribadire la necessità di rivedere i classici in pellicola per la qualità di visione superiore della pellicola. Peraltro ti dico, oggi abbiamo visto il grande successo di Spectre, è un film girato in 35 mm, sì. Cioè le major sono loro le prime a sapere che ovviamente poi la post-produzione e la proiezione in sala si fa in digitale, però il fatto di girarli in pellicola assicura una qualità visiva che ancora il digitale non ha, mm-hmm. E forse non avrà mai, se pensi che anche il film più atteso dell'anno, che è il nuovo episodio di Star Wars, è girato in pellicola, addirittura in pellicola 70 mm, che è il top del top. Per cui sono le major stesse a sapere che la pellicola ha comunque un tipo di sensibilità che il digitale non ha, insomma. Ma poi in America anche adesso Tarantino, Paul Thomas Anderson, Christopher Nolan girano esclusivamente in pellicola, il digitale non lo vogliono proprio vedere. Per cui ecco, però ovviamente lavorare in pellicola vuol dire avere anche una disponibilità più limitata, insomma, e quindi tutto qui. Bene. Senti Stefano, per quanto riguarda la programmazione, sì, io invito tutti martedì 17, che abbiamo I misteri del giardino di Compton House, che è il primo film di Peter Greenaway, e quando ancora diciamo Greenaway veramente era una novità dirompente, che insomma con veramente con dei temi, una raffinatezza visiva insomma veramente notevole, poi le musiche di Nyman, insomma veramente ecco rivederlo in sala è una bella esperienza, quindi invito tutti a venire da noi martedì 17. E c'è un programma online? Sì, certo, sul sito di Palazzo delle Esposizioni o anche sul sito dell'associazione. Bene. Quindi palazzoesposizioni.it o lafarfallasulmirino.it, c'è tutto quanto. Benissimo. Stefano, un abbraccio e alla prossima. Grazie mille Federico, un abbraccio anche a te. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Allora, questo era Stefano Finesi per quanto riguarda l'associazione La Farfalla sul Mirino per A Qualcuno Piace Classico, quinta edizione al Palazzo delle Esposizioni qui a Roma dal 27 ottobre passato, quindi siamo al secondo appuntamento per martedì prossimo fino al 31 maggio 2016. Abbiamo ora un altro ospite, una voce conosciuta, era un po' di anni fa, vero Diego? Diego? Praticamente la preistoria, una vita fa, ma è bello averne sette di vite, io adesso non so a quale sto, ma ne vorrei parecchie di più, ecco. Diego Giuliani, che è stata una delle voci di Visionari agli inizi di questa avventura, ora non è in Italia, però continua a muoversi e a fare progetti, per cui ci parlerà di questa piattaforma web dedicata al documentario che si chiama 99, il titolo è 99, il suo nome, e Diego, mi sembra già una bella cosa questo. Guarda, noi siamo molto contenti perché intanto già a titolo personale ci entusiasma molto questa avventura, siamo convinti che ci siano degli spazi effettivamente per perché possa funzionare. L'idea, molto semplice in sé, è quella di trovare dei canali alternativi per tanti documentari che si girano, esistono, sono pensati e che poi non arrivano mai a guadagnare la loro visibilità. Il perché risiede nel fatto che i canali che fino a poco fa erano tradizionali, perché stiamo vivendo una fase di grande mutamento nel consumo dei prodotti audiovisivi, non offrono più spazi adeguati. L'Italia ne soffre più di altri paesi, perché documentari in televisione non se ne vedono praticamente. Quanto noi ci proponiamo di fare è sfruttare da una parte il web e dall'altra la forza del multilinguismo per offrire una piattaforma di visibilità a tanti prodotti che spesso restano nei cassetti e che non arrivano mai a guadagnare un pubblico. Come funziona? C'è il nostro sito sul quale noi accogliamo dei documentari che selezioniamo in base alla nostra linea editoriale, su questo possiamo tornare dopo se vuoi. Sì. Ogni documentario viene poi tradotto e adattato, che sia con sottotitoli o con doppiaggio a seconda dei casi, in 6 lingue, che sono, oltre all'italiano, il francese, l'inglese, lo spagnolo, il portoghese e il tedesco. E in queste 6 lingue viene da una parte messo online rigorosamente senza diritti di autore, per cui chiunque può poi condividerlo, diffonderlo, perché a noi quello che interessa è che il prodotto sia visto. E allo stesso tempo quanto proponiamo è una promozione nei festival di tutti i paesi che parlano queste lingue, il che significa potenzialmente raggiungere la metà del pianeta. Stiamo ai primi passi, i nostri primi passi sono già incoraggianti, perché stiamo avendo un ottimo ritorno da parte dei festival. Questo ci incoraggia e ci entusiasma ancora di più per quanto ci aspetta nei mesi e speriamo negli anni a venire. Senti Diego, soprattutto per chi ci ascolta e vuole magari mettersi in testa e fare in pratica un progetto del genere, la squadra da quante persone più o meno è composta? Allora, noi siamo 6 giornalisti, uno per lingua, incluso il fondatore che è un francese, mi sembra doveroso menzionarlo, Jérôme Plan, è stata sua l'idea, più uno staff di tecnici del suono e montatori che operano con noi, anche perché oltre a questa fase di adattamento nella quale ci siamo già lanciati, l'idea a breve è quella di accompagnare i documentari, che siano anche soltanto in fase di progettazione, in tutto sulla loro lavorazione produttiva, per cui dalla scrittura fino alla realizzazione, accompagnare questi progetti e nel momento in cui entrasse veramente, si mettesse in moto il meccanismo di 99, riuscire anche a retribuire lo stesso regista per il lavoro fatto, perché riconosciamo comunque un valore a questo lavoro. Per il momento noi stiamo lavorando su base volontaria, ma perché siamo veramente ai primissimi passi, ma l'idea è veramente di riconoscere un valore materiale ai lavori a cui diamo questa visibilità. Sì, sì, sì. Diego, dove andate a pescare il materiale? Allora, è un mare magnum, mare magnum, perché basta cercare nel web, basta cercare nei siti specializzati e ci sono tanti registi, tanti materiali che chiedono soltanto di essere perlomeno visti. Noi fino a questo momento ne abbiamo già sul sito, ne abbiamo promossi 2, sì. Ce n'è un terzo invece che è in arrivo dagli Stati Uniti, stiamo valutando in questo momento se proporlo, ma c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Il problema non è assolutamente quello del reperire i documentari, perché comunque è un po' un imbuto, quello, diciamo, l'imbuto è l'immagine che rappresenta in qualche maniera la produzione dei documentari. In alto ci sono delle miriadi di prodotti e poi si stringe e quelli che poi riescono ad uscire in qualche maniera dal tunnel e a guadagnare visibilità sono pochissimi, per cui l'imbarazzo è veramente della scelta, non è quello il problema. Sì. Senti Diego, per i criteri di scelta immagino che ci siano, siano sia di aree tematiche che qualità artistica. Allora, diciamo tutto nasce anzitutto, tutto deriva un po' dal nome 99 che ci siamo dati. 99 perché? Perché noi vogliamo parlare del 99% della popolazione, ovvero sia di tutti coloro che in qualche maniera vengono ignorati dai media tradizionali. Quelle che vogliamo raccontare e che abbiamo cominciato a raccontare sono storie ordinarie di persone che nel loro piccolo in qualche maniera stanno cambiando il mondo di oggi e costruendo quello di domani. Può sembrare un po' vago, chiedo scusa, per entrare un po' più nel merito, le tematiche nelle quali si articola la nostra linea editoriale per il momento sono muri, battaglie e fuori gioco. Muri sono dei muri sia fisici, possiamo pensare ai muri che dividono e che in questo momento stanno sorgendo tra i paesi europei per arginare il flusso dei migranti, o muri semplicemente psicologici, culturali che impediscono lo sviluppo e la libera espressione di ciascuno di noi. Le battaglie anche in questo caso sono delle battaglie che nel nostro piccolo possiamo condurre a vasto raggio, è un concetto molto ampio anche qui per sormontare dei limiti che impediscono la nostra espressione. E fuori gioco è invece una categoria un po' più circoscritta, che riguarda delle storie di sport non professionistico, ma laddove lo sport invece guadagni un valore di emancipazione e di affermazione, soprattutto in contesti geografici e politici particolarmente difficili. A questo punto ci lasci tutti i riferimenti, Diego? Allora, il sito per trovarci e dove ovviamente visionare i nostri documentari, che lo ricordiamo sono liberi, diritti d'autore, quindi siete tutti liberi di condividerli se li apprezzate, appropriatevene e condivideteveli. Noi siamo assolutamente, abbracciamo la teoria del copyleft. www.99.media è il sito. Ci trovate poi anche su Twitter con al nostro account @99media_.it e poi anche su Facebook. Diego, mi sa che ci risentiremo nel corso del tempo. Assolutamente, non mancate di guardare i nostri documentari. L'ultimo che abbiamo messo sul sito si chiama L'avventura, è una storia di straordinaria attualità. È una storia di tre migranti, potrebbe essere una storia rubata dalle cronache di questi giorni. È stata girata 2 anni fa e questa è la cosa straordinaria, perché testimonia come il documentario arrivi sulla realtà spesso prima della notizia. Tre migranti ivoriani arrivati in Europa attraverso la frontiera greca, rimasti bloccati in Grecia dagli accordi di Dublino che ormai tutti conosciamo, e poi costretti, dopo innumerevoli tentativi di raggiungere l'Europa occidentale, di imboccare l'ormai famosa rotta balcanica. Un abbraccio e a presto, Diego. Grazie a voi. Ciao. Diego Giuliani, curatore della piattaforma web per i documentari 99. Eccoci con Manuel Zarpellon, co-regista di un documentario che si intitola Cieli Rossi, Bassano in guerra, in uscita in sala a partire dal 17 novembre prossimo. Ci sei? Ci sono, ciao, come va? Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Bene, molto bene. Molto bene. Soddisfatti, raccontiamo un po', si parla di della prima guerra mondiale, in che termini, Manuel? Allora, noi ci siamo focalizzati su raccontare quegli episodi che un po' tutti conosciamo dal 1914 al 1918, che hanno interessato un po' tutto il fronte italiano. In particolar modo abbiamo voluto fare un focus su un settore che spesso e volentieri viene un po' dimenticato dalle pagine di storia, che è il settore di Cima Grappa, del cosiddetto nocciolo che del fronte italiano, che dopo la rotta di Caporetto ha permesso praticamente al fronte di non collassare e di arrivare a quella che fu la vittoria. Facendo un parallelismo con la città di Bassano del Grappa, allora si chiamava Bassano Veneto, che è stata scelta campione per far capire quali furono i disagi e quali furono le problematiche che una piccola cittadina di frontiera visse con tutti i disagi che il conflitto in atto a pochi metri, a pochi chilometri dalla città era infuocato. Quindi così il documentario vuole portare l'attenzione su una nuova lettura del grande conflitto mondiale. Senti, come ha vissuto la popolazione, la gente comune dal di fuori delle trincee questo conflitto? Che ricordi ci sono? Ma ci sono dei ricordi molto drammatici, perché fino dal 1914, quando inizia il fenomeno del profugato, che quindi molti emigrati delle terre italiane sono costretti a rientrare a casa perché nei paesi che li ospitavano era in corso il conflitto, questo crea tra la popolazione notevoli disagi e notevoli preoccupazioni, perché inizia ovviamente un problema anche economico, scarseggia il lavoro, le famiglie che emigravano ovviamente emigravano perché qui non c'era la possibilità di vivere una vita normale come la potremmo concepire, quindi questo provoca un'immensità di problematiche. Poi via via, man mano che il conflitto evolve, cominciano ad esserci disagi per le popolazioni locali che vengono completamente militarizzati, arrivano proporzioni di soldati che arrivano a coprire la popolazione attuale. A Bassano Veneto c'erano allora 18.000 abitanti e i soldati in grigio verde erano 18.000, quindi questo per una realtà molto piccola fu un problema immenso, fino ad arrivare poi con la rotta di Caporetto e l'avvicinamento del fronte all'ordine di evacuazione generale. Tutte le popolazioni furono costrette ad abbandonare le proprie case, ad abbandonare i propri affetti, ad abbandonare anche le proprie attività ed emigrare un po' in tutta Italia, creando ovviamente una situazione di sacrificio notevole. Sì, sì, sì. C'è nei giovani un sentimento ancora rispetto al rifiuto della guerra che è stato proprio dei loro predecessori? Sì, c'è un sentimento di grande rispetto per quello che fu il sacrificio dei propri coetanei, e c'è una presa di consapevolezza nel visitare i sacrari militari, nel leggere sotto i nomi di migliaia e migliaia di soldati un'età anagrafica che è la loro. Sì, quindi sì. Noi spesso diciamo che la Grande Guerra purtroppo per noi è una cosa del passato e spesso viene associata a un argomento che raccontano i nonni, i bisnonni, generazioni passate, quindi una cosa da vecchi, se vogliamo così dire. Però in realtà quei giovani che furono i protagonisti indiscussi del conflitto sono proprio dei ragazzi di 20 anni che hanno visto la loro vita fermarsi nel pieno dello sviluppo, nel pieno delle prospettive, hanno visto infrangersi i sogni, le aspettative di vita. Quindi nei giovani sta nascendo questa consapevolezza, che è una cosa che oramai speriamo sia scongiurata per le nostre generazioni, ma per la generazione di allora, per i ventenni di 100 anni fa, fu una cosa realmente drammatica. Sì, sì. Manuel, che modalità di distribuzione avete scelto per questo documentario? Allora, la distribuzione scelta per il momento è quella ovviamente di approdare nelle sale cinematografiche, perché il documentario si presta a una visione anche in sala, essendo sì. stato costruito e concepito per essere fruibile come strumento, come film vero e proprio. Però crediamo che la natura intrinseca del documentario sia quella della distribuzione nel mondo scolastico come sì. strumento didattico, un po' per le tematiche trattate, un po' per come sono state trattate. Quindi ci auguriamo che presto questo documentario possa essere utilizzato come strumento. In tal senso sta nascendo una forte collaborazione con l'Associazione Nazionale Alpini, che ci stanno aiutando, ecco, su questo fronte. Bene. Allora, ricordiamolo, in sala dal 17 novembre, Cieli Rossi, Bassano in guerra. C'è uno spazio internet dove saperne di più, Manuel? Sì, c'è una pagina su Facebook che è nata un po' così negli ultimi mesi, che è Cieli Rossi Passano in Guerra, dove si possono trovare un po' tutte le informazioni che riguardano il documentario, ma ci sono anche dei video di backstage, perché i luoghi che abbiamo raccontato sono spesso anche irraggiungibili con i mezzi moderni, ma solo a piedi, quindi è interessante vedere anche dove sono e come raggiungerli eventualmente per chi volesse, magari, non so, organizzare una giornata diversa alla ricerca di questi luoghi che comunque sono molto particolari e molto suggestivi. Un abbraccio, Manuel, e alla prossima. Grazie mille, un abbraccio a te e un saluto a tutti. Ciao ciao. Ciao. Manuel Zarpellon, co-regista del documentario Cieli Rossi Bassano in Guerra, in uscita in sala il prossimo 17 novembre. In collegamento con Anita Lamanna, co-regista del documentario Magna Grecia, Europa Impari, al Visioni Fuori Raccordo Film Fest al Kino qui a Roma il 13 e il 14 novembre, due date. Anita, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti, grazie per avermi chiamato. È piacere di parlare con voi e con tutto il vostro pubblico. Senti, qual è questa Magna Grecia di cui vi siete occupati? Quale parte d'Italia? Allora, abbiamo appena presentato al Mad Film Festival per la prima volta in Italia un film sulla Calabria che si intitola Magna Grecia, Europa Impari, e quindi diciamo che è un film che cerca di fare un ritratto della Calabria, cercando di andare al di là delle forme abituali dei media, quindi è un documentario di creazione di cinema diretto in cui mettiamo in scena delle conversazioni di persone che non investono nessun tipo di funzione, quindi è un film in 5 capitoli con delle donne, un professore che parla ai propri studenti, un politico locale, un magistrato e un poliziotto. E a partire da questi quadri, li chiamerei così, cerchiamo di dare un ritratto di questo Sud Europa. E la Calabria, appunto, anche se il film è proprio sulla Calabria, abbiamo voluto evocare nel titolo Magna Grecia, quella culla della modernità che fu e che oggi fa parte di un passato quasi mitologico e un presente in cui c'è una ricchezza culturale molto, molto alta e in cui appunto questo Sud Italia, la Calabria, questo Sud Europa è un luogo di frontiera tra il Sud e il Nord del mondo, quindi è un luogo di transito molto, molto importante. Quindi questo film, diciamo che facciamo un focus abbastanza importante su tutto il problema della migrazione, cerchiamo di svilupparlo, di comprenderlo attraverso la parola di migranti, di professori che spiegano tutti i giorni a scuola la questione della coesistenza attraverso un vissuto. Ecco, in parte già stavi rispondendo alla domanda che ti volevo fare ora con quest'ultima frase. Volevo chiederti proprio questi personaggi protagonisti del vostro lavoro e quali segnali danno in positivo rispetto alle problematiche che ponevi. Allora, sono dei personaggi, diciamo, tutti filmati in ambienti abbastanza chiusi, sono filmati mentre conversano a tavola, diciamo, le mura delle loro case sono delle mura bombardate, direi, violentate, un presente abbastanza complicato. Le donne sono testimoniano un'emancipazione da uomini che le hanno picchiate sempre, e i migranti raccontano tutte le trafile burocratiche che devono fare per avere un permesso di soggiorno e l'esperienza dei campi. Ognuno racconta una propria esperienza in quotidiano, ma la cosa utile è che il modo di raccontare appunto non è il modo dell'informazione, non è il modo della fatalità, non è il modo della pena, è un modo di un vivere del quotidiano che dà voce a una parola intima, sincera, critica del presente e quindi per questo militante. E questo diciamo che è un po' il messaggio del film, che la descrizione di un territorio che vive un'assenza politica e di personaggi che rappresentano una militanza del quotidiano anche se questa politica è totalmente assente. E l'altra cosa molto importante da dire, direi che appunto in questa Europa impari, come la diciamo nel titolo, c'è una ricerca di equilibrio in realtà tra una dimensione che è la dimensione della libertà e quella della sicurezza, quindi i ritratti che facciamo partono da una dimensione di libertà, anche se questa libertà è raccontata da personaggi che sono violentati ogni giorno, e la sicurezza è il mondo della solitudine, il mondo del poliziotto, il mondo del magistrato, il mondo della libertà limitata in cui la nostra epoca ci porta spesso a fare i patti. Senti Anita, nei territori che avete attraversato c'è una società civile che riesce a far rete? Allora, il far rete, diciamo che siamo partiti dalla conversione come veramente un mezzo che crea relazione. Sì. Il far rete per me è la relazione, è la trasmissione, è il vissuto insieme, è qualcosa che è completamente opposto dalle connessioni. Da tutto quello che è un mezzo un po' in cui oggi crediamo troppo, che pensiamo che sia sufficiente a se stesso. Quello è tecnico, non è concreto, non è reale, è qualcosa che si può utilizzare per integrare delle relazioni, quindi ci sono delle donne che parlano ai propri figli, degli immigrati che parlano agli altri immigrati che arrivano, un professore che trasmette ai propri studenti. Questo è l'ordine della relazione e questo è per me il metodo, cioè la trasmissione per organizzarsi e l'educare per agire. C'è uno spazio internet dedicato a Magna Grecia, il vostro documentario? Potete andare a vedere, abbiamo prodotto questo film a due in realtà, siamo io, in realtà i registi siamo io e Erwan Kerzanet, un fonico di presa diretta francese, e abbiamo realizzato questo con una nostra piccola società che si chiama Imageton. Imageton, c'est l'Imageton di Deleuze, e il sito è www.imagetonproduction.com. Okay. E una cosa importantissima che ieri abbiamo presentato al Mad Film Festival è che venerdì e sabato il film sarà proiettato al Chino, al Pigneto in via Perugia, alle 20 e alle 22:30. Quindi accorrete numerosi, perché forse sarà l'unica volta che si potrà vedere questo film a Roma. Spero di no, ma insomma al cinema almeno. Ok. Allora Anita, io ti ringrazio, un abbraccio e ci sentiamo presto. Grazie mille Federico, ci troviamo presto. Okay. Grazie mille. Un abbraccio. A presto. Ciao. Un abbraccio. Ciao. Anita Lamanna, coregista del documentario Magna Grecia, Europa Impari, al Visioni Fuori Raccordo Film Fest il 13 e 14 novembre prossimi. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15 sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming sul sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta. Con noi Marco Tullio Giordana, regista del film Lea, che sarà in programmazione su Rai 1 il prossimo 18 novembre. Marco, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, grazie mille. Allora, ho avuto modo di vedere il tuo lavoro ieri in proiezione stampa, intanto complimenti. Di Lea Garofalo ci stiamo occupando a più riprese e stiamo seguendo anche uno spettacolo teatrale che porteremo presto qui in radio. Allora, per chi ci ascolta, raccontiamo per sommi capi la vicenda di Lea Garofalo, Marco. Beh, una storia intanto vera, purtroppo, è una storia terribile, perché una donna che proviene da una famiglia criminale, da una piccola famiglia criminale calabrese di Tiglia Policastro in provincia di Crotone, e sposa un affigliato, un altro piccolo spacciatore, un usuraio milanese, cioè calabrese ma immigrato a Milano, e capisce che quel mondo non fa per lei, non vuole farne parte, non vuole più farne parte, non vuole educare sua figlia in quell'ecosistema che a lei ripugna. Quindi lascia il marito, compagno, non sono nemmeno sposati, e per questa ragione rompe un tabù: non si può lasciare, non si può fuoriuscire, va punita, e questo succede, cioè il suo compagno insieme ai suoi fratelli la uccide, fa sparire il corpo, quindi nemmeno rivendicando la punizione, e sarà soltanto il coraggio della figlia Denise, che si costituisce parte civile contro il padre, e grazie anche questa volta alla velocità, alla rapidità, alla sagacia degli investigatori, vengono poi tutti incastrati. Ma ancora non c'è il corpo di Lea, quindi tutta la difesa è incentrata sul fatto che, non essendoci il corpo, Lea Garofalo ha abbandonato la figlia, dimostrandosi una pessima madre, se n'è andata all'estero senza dare più notizie. Mm-hmm. Finché, e qui un colpo di scena che nessuno sceneggiatore avrebbe mai potuto immaginare, che il giovane fidanzatino di Denise rivela di aver fatto parte del gruppo che ha eliminato Lea, di aver addirittura aiutato a smembrarne il corpo e a bruciarlo, fa ritrovare il cadavere. A quel punto non è più un processo indiziario, è un processo con un corpo, e la linea della la difesa non può più sostenere l'insostenibile, e ben tre sentenze confermano l'ergastolo agli esecutori. Oh, Marco, per quanto riguarda, lei puntualizza anche nel tuo film, non è né pentita né collaboratrice ma testimone di giustizia. Nonostante questo, e nel film questo si vede molto bene, viene alla fine abbandonata al suo destino. Sì, purtroppo il programma di protezione che è scattato all'inizio, siccome ha una specie di anche di valutazione dei risultati, i risultati però sono, per tante ragioni possono non arrivare. Sì, possono arrivare perché queste testimonianze non sono così importanti, ma possono anche arrivare perché gli investigatori non sono bravi, perché i giudici magari sono ammanicati o corrotti, e quindi tante volte questi testimoni di giustizia che sono pronti non a pentirsi perché non hanno fatto niente, ma a dare delle informazioni preziose sui movimenti criminali, non osano farlo perché sanno di non poter contare su una protezione adeguata, che è quello che successe a Lea Garofalo. Quando è riscattato un programma di protezione più accurato, ormai era troppo tardi. Marco, la figura più straziante sicuramente è quella della figlia Denise, alla quale uccidono la madre, con la quale aveva un rapporto molto stretto e simbiotico, e questo le causa disastri psicologici ed emotivi, anche per il ruolo che in questo omicidio rivestono sia il padre che il giovane fidanzato. Beh, io penso che oltre allo strazio terribile di perdere una madre con la quale, hai detto bene, un rapporto simbiotico, direi di più, è un rapporto amichevole, sì. Perché magari i genitori non li scegli, gli amici invece li scegli, tu li ami, li vuoi così, e quindi non è solo il legame di sangue, è un legame di elezione profondissimo che li tiene insieme fino a quando Denise è piccolissima. Allora questa madre sparisce, lei sa, intuisce, sa, sente che gliel'ha uccisa suo padre, e però tutti intorno invece dicono di no, non è vero, è una follia, quindi tu devi dubitare di tuo padre e addirittura scoprire che lui è l'assassino di tua madre e che il tuo ragazzo, cioè l'uomo al quale tu ti affidi, ti confidi, è anche lui parte della macchinazione. Cioè che questa ragazza abbia poi avuto la forza di denunciarli e anche la forza di rischiare, ovviamente Denise in questo momento è sotto protezione molto stretta e questa volta nessuno vuol commettere gli errori che sono stati commessi con sua madre, ma io mi chiedo quale fiducia potrà mai avere nel genere umano questa ragazza. Quindi mi sembra, oltre che il suo coraggio, mi colpisce anche il suo grande ottimismo. Sì. Nel senso che liberarsi di una violenza del genere, buttarsela alle spalle, voler affermare la vita contro queste cose che le sono successe, mi sembra qualcosa di grandioso, di molto toccante. Ecco, io spero che Shin lo racconti bene questa parte qui. Ecco, e per costruire una storia così, così importante, così toccante, come dicevi appunto tu, e in fase di scrittura, su quali materiali vi siete interessati, avete Ma dunque in gran parte sugli atti del processo, okay, che sono la prima base naturalmente. Per esempio tu hai visto nella scena del processo tutte le testimonianze che sono rese lì dai vari personaggi, sono state proprio trascritte dai verbali di interrogatori, sì, in aula, sì. Quindi lì non c'è nessuna licenza. E Monica Zappelli, che è la sceneggiatrice insieme a me del film, anzi è proprio lei che ha avuto l'idea, la prima idea di cominciare a lavorare su questo caso, e lo ha seguito fin dai tempi della sparizione di Lea e poi dei primi processi. Naturalmente ha fatto anche molte interviste alle persone dove era possibile, le persone che sono state vicino a Denise, per esempio il suo avvocato Enzarando, Don Ciotti e quei ragazzi di Libera che hanno dato un forte sostegno morale a Denise, perché bisogna immaginarsi quest'aula del processo pieno di parenti, di familiari tranquilli che sarebbero stati tutti assolti perché non c'era il corpo, e una ragazzina sola che ha appena compiuto 18 anni che deve affrontare questa ostilità, che deve affrontare le aule di giustizia, quel marmo, quei giudici. In realtà in questo caso è stato fatto giustizia, ma penso alla solitudine, penso a lei che arriva in macchina e vede tutto questo mondo di persone che sarebbero anche legati a lei dal sangue ma che le sono nemiche. Qualcuno nelle recensioni ha parlato di dramma shakespeariano, è vero, quando sono in scena dei conflitti così potenti, addirittura quasi tribali, se posso usare questa, sì, parola, sì, sì, sì. Ed è incredibile che la realtà di oggi ancora offra questo materiale, ancora possa consumare un materiale del genere. Marco, io ti ringrazio, ricordiamolo su Rai 1, la messa in onda il 18 novembre prossimo, e ci sentiamo presto. Va bene, grazie. Resta grazie un attimo in linea, questo. Marco. Sì. Sì, certo. In collegamento con Ginella Vocca, direttrice della 21esima edizione del Mad Film Festival qui a Roma, ancora oggi e domani, perché è cominciato il 6 novembre, finisce il 13. Ginella, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Ben ritrovati a voi, è sempre una gioia. Almeno una volta all'anno parliamo insieme di cinema. Esatto, anche se per gli ultimi due giorni di festival, però non volevo mancare questo appuntamento. Allora, 21esima edizione, per chi ci ascolta, quali sono le caratteristiche del Mad Film? Guarda, il Mad Film Festival è l'unico festival qui a Roma a parlare di cinema mediterraneo e a parlare del nostro presente attraverso le voci dei diretti protagonisti. In questa settimana abbiamo avuto l'opportunità di essere in Libano, di essere in Turchia, di essere in Grecia, di essere in Marocco, di essere in Egitto. E non ci siamo andati e non abbiamo riportato la nostra cronaca, ma abbiamo ascoltato dalla voce dei protagonisti le loro storie, e devo dire che questa specificità è unica, perché è un festival internazionale, ma lo è davvero. Quanti sono i paesi coinvolti, Ginella? I paesi coinvolti quest'anno sono circa 30, abbiamo parlato anche di Siria, lo faremo anche oggi in particolare abbiamo un incontro di approfondimento al macro di Via Nizza sul tema Siria, cinema tra le macerie del presente, e come ti dicevo abbiamo cercato di toccare, la Tunisia è stata presente al festival, abbiamo cercato di dare una visione ampia su tutti i paesi del bacino del Mediterraneo. Quanti film presentati in questa edizione? 78. Ancora una volta non siamo riusciti a contenerci, abbiamo questo problema. Senti, immagino che tra i vari temi trattati quello delle migrazioni sia stato il più presente. Assolutamente sì, ormai sono 2-3 anni che il tema è questo e non possiamo discostarci, anche perché a differenza del cinema italiano, il cinema degli altri paesi, quindi non solo di questi ma anche il cinema europeo, parla molto di questo tema. Per cui viene quasi da sé, se vuoi stare sulla realtà, se vuoi essere nel presente e vederlo attraverso la lente del cinema, non puoi non parlare di questi argomenti. Sì. Senti, quali sono le prospettive, ecco, rispetto ai viaggi della disperazione e anche della speranza, quali sono le prospettive da cui li affrontano i vari cineasti? Guarda, quello che esce sempre fuori, ma anche dai film siriani, voglio dire, la Siria è un paese dove adesso non c'è la vita, c'è l'inferno sulla terra, ok? Ma anche da lì si riesce a costruire da frammenti disperati come quelli una poesia, da queste testimonianze viene sempre fuori l'importanza di la capacità che c'è negli esseri umani di poter ricostruire sempre e comunque una via, una speranza, una possibilità, un'ipotesi. È la chiave più forte. Io, guarda, mi è capitato di scoprirmi ancora io dopo 21 anni inconsapevole, a tratti razzista su alcuni temi, così come ho capito per esempio che l'ordine pubblico in Italia, in Europa, non è tenuto tanto dalla capacità più o meno di far funzionare gli organi preposti o le regole, ma è dato da loro, dalla loro capacità di resistere e sopravvivere alle disavventure a cui vanno incontro i migranti. Senti, ci sono paesi più vivaci dal punto di vista cinematografico in questa edizione, e quali sono? Guarda, anche questa edizione sì, ha visto molto spiccare proprio per quantità e qualità il Libano e Israele. Devo dire che quest'anno è arrivato tantissimo da loro, e a tutti gli effetti molte interessanti testimonianze da parte di queste cinematografie. Ci sono aree di argomentazioni più ricorrenti e interessanti che hai trovato? Guarda, più che aree di argomentazione ho trovato generi, cioè una quantità di donne bravissime, opere prime di registe già mature, la maggior parte delle quali disseminate sia tra i lungometraggi che tra i documentari che tra i cortometraggi, per cui questo mondo femminile, queste professionalità al femminile molto molto interessanti, molto solide. Tante, una percentuale di donne registe notevolissima. Non può che far piacere. E ci, a questo punto, per la programmazione ci lasci tutti i riferimenti internet, Ginella? Sì, vi lascio il www.medfilmfestival.org, che è il nostro sito, la pagina Facebook è aggiornatissima. Ti chiedo scusa, sono un po' confusa perché sto pensando a tante cose mentre ti parlo, perché dobbiamo andare ad organizzare l'incontro a cui teniamo moltissimo sul tema appunto del cinema tra le macerie del presente. Al Macro alle 18 interverranno Stefano Polli, Christian Balmer e chi è il terzo? Gianfranco Pannone e Silvestri, un carissimo amico, sì. E salutaceli. Che mi hai chiesto? Certo che vi risaluto, No, tutti i riferimenti internet per il programma, insomma. Guarda, purtroppo siete arrivati un po' tardino, diciamo, quindi abbiamo oggi questa cosa e domani sicuramente la cerimonia di premiazione, il bellissimo film The Lexicon, che è tra i finalisti del Lux 2015 e sarà il nostro film di chiusura. Bene. Al cinema tra voi. Ginella, un abbraccio e alla prossima. Ben trovati, e sì, ci sarebbe ancora tantissimo da dire. Un gran magone per tutte queste anteprime e anteultime, una delle edizioni più belle che siamo riusciti a costruire. Vi ricordo che siamo passati attraverso Mafia Capitale, che sono 21 anni che noi teniamo il punto, per cui sì, Stateci vicino, perché è un momento molto difficile. Noi, ma quando siamo, il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Ginella, ciao e a presto. A presto, ciao, ciao, grazie. Ciao. Ginella Vocca, direttrice della 21esima edizione del Mad Film Festival a Roma, dal 6 fino a domani 13 novembre. Dovremmo avere un ultimo collegamento. Il Massiliano Bruno, Max, ben ritrovato su queste frequenze. Oh, belli, come state? Tutto bene? Tutto ciao Massi. Sappiamo. Perché il film del quale dovevamo parlare con te è Gli ultimi saranno gli ultimi, del quale Max, se ben ricordi, in radio abbiamo mandato l'audio dello spettacolo teatrale. Io lo so benissimo che abbiamo mandato l'audio dello spettacolo teatrale, perché vi ho prestato il mio DVD che è ancora che è ancora qui con me. Senti, no, Max, questa cosa grida vendetta perché non si trova più. Non si trova più, quindi ho un bel reperto, diciamo. Senti, Max, vabbè, parliamo anche del tuo di film a questo punto. Ti chiedo del passaggio dal lavoro teatrale, in cui c'era Paola Cortellesi da sola, a un film. Ecco, come ci hai lavorato sopra? Guarda, il passaggio dal teatro al cinema è stato un po' complicato, perché innanzitutto in teatro Paola faceva tutti i personaggi in maniera poliedrica, e quindi interpretava sette personaggi, quindi abbiamo dovuto chiaramente prendere degli attori al posto di Paola, che ha fatto soltanto Colacci Luciana, che era protagonista. E poi erano leggermente cambiati i tempi, abbiamo dovuto un po' adeguarci, anche se il fulcro dello spettacolo è sempre quello. Allora si parlava di precariato, adesso si parla di crisi e di lavoro che non c'è, e quindi abbiamo dovuto fare degli accorgimenti. Ma insomma, Paola è stata comunque straordinaria, ugualmente come lo era in teatro, lo è in questo film, dove a mio modesto avviso fa la sua performance più strepitosa da quando la conosciamo. Già siamo abituati a vederla fare cose strepitose, quindi vi sto dicendo questa volta il meglio del meglio. Senti, non è la prima volta del teatro che comunque in qualche modo ti riguarda, che passa al cinema. Come mai questi passaggi? Perché fanno parte del tuo passato, e quindi in qualche modo uno passa dal teatro al cinema, anche perché ha rodato una storia in teatro per tanti anni, magari, oppure l'ha vista nascere e crescere. Evidentemente, se ha avuto l'esigenza di scrivere del teatro, vuol dire che è un argomento che magari ti appartiene, e quindi è per questo che, insomma, è il quarto film che porto dal teatro al cinema, ma questo in particolar modo è uno a cui tengo veramente tanto, francamente. Oh Max, a questo punto ti dico una cosa che non so se ti ricordi, ero venuto a vedere il tuo reading delle Tavole di Zero Calcare in della Cartiera sull'Appia Antica, e volevo dirti che... Penso su Coban. Esatto, su Coban, il reportage di Zero Calcare. Domani, non so, sarai impegnato con la promozione del film, però domani sera al Nuovo Cinema Palazzo noi facciamo una serata incontriamo Zero Calcare, che tra l'altro... Zero Calcare, io sono un grande ammiratore di Zero Calcare, domani chiaramente sono impegnato nella promozione del film, quindi non posso esserci, però... io ti mando veramente ci sostiene energie positive del mondo, perché lui è uno sì. Veramente un numero uno, cioè tra uno l'altro ha un tocco geniale. Sì, tra l'altro ci saranno una ventina tra attori e attrici che si alterneranno sul palco per massimo un quarto d'ora a testa, alcuni dei quali faranno un reading, tra cui Chiara Giancardi, che tu conosci, si alterneranno sul palco, e loro quattro faranno proprio letture delle loro tavole. Fai fare la colonna sonora a Giuliano Taviani. Vabbè. Senti, evviva! Quando è che ci andiamo a mangiare una pizza e a parlare di politica? Ti prego. Esattamente, quando vuoi, assolutamente. Dai, parliamo di politica, perché ci sta crollando tutto addosso. Giuliano, è tutto finito. Siete rimasti in sette, Giuliano. Ammetto, è tutto finito. È vero, è vero. Senti Max, noi ci salutiamo con un brano di Giuliano da un tuo film, ed è In bilico la traccia in questione. Benissimo, io vi saluto, sto entrando nella redazione di un giornale a parlare del film, è stato un onore stare con voi, vi prego di scusarmi con Federico Raponi e di dirgli che farò del sesso per lui. Ok, glielo diremo. Glielo diremo. Non personalmente, chiaramente, ma gli mando il mio amico Stefano Presi. Ciao Max, un abbraccio, ciao, bocca al lupo. Ciao. Bene, avremmo dovuto sentire Massimiliano Bruno, regista del film Gli ultimi saranno ultimi, in uscita in sala oggi, giovedì 12 novembre. Ci siamo sentiti prima di andare in onda, ma ora purtroppo non è raggiungibile, ma era impegnato in un'altra diretta, forse si è prolungata. Però chiudiamo qui a questo punto, ci diamo appuntamento magari anche con lui a giovedì prossimo, della prossima settimana, giovedì 19 novembre. Tutte le informazioni sulla trasmissione le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. Ci ascoltate in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming, perché sul sito della radio, sull'home page, c'è Ascolta la diretta.